I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il tema di quale sia il livello oltre il quale chi non paga le tasse debba essere punito anche con una sanzione penale, oltre che con la sanzione amministrativa, che naturalmente è sempre prevista, è ritornato di attualità, perché nei prossimi giorni il governo dovrà decidere che fare della famigerata regola del 3%. Come qualcuno ricorda, alla vigilia di Natale il governo ha approvato i nuovi limiti per i reati tributari. La sanzione penale scatterebbe quando l'evasione supera i 150.000 euro, ora il limite è 50.000, ma con una soglia del 3% dell'imponibile fiscale, con il risultato che se l'imponibile è molto elevato, per esempio 200 milioni di euro, l'evasione scatterebbe solo se le imposte non pagate superano i 6 milioni di euro. Questa norma, ribattezzata Salva Berlusconi perché secondo alcuni l'ex premier avrebbe potuto beneficiare in qualche modo di questa norma perché lui è stato condannato per frode fiscale, è stata poi bloccata dal governo che la ripresenterà il 20 febbraio. Il punto è che tutti si aspettavano un dietrofront da parte del governo, ma ieri Renzi ha detto che ci stiamo pensando, come dire, stiamo valutando se cambiare strategia oppure se lasciare la soglia del 3%, escludendo però i casi di frode fiscale, come molti chiedono, anche in relazione appunto ai benefici che ne avrebbe Berlusconi. Lo vedremo presto, perché è giusto l'obiettivo di evitare che ogni violazione fiscale di piccola entità e magari in buona fede possa avere conseguenze penali, ma per contro è impensabile un sistema che consenta di fatto evasioni milionarie non perseguibili penalmente. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I grandi cambiamenti nascono spesso da piccoli eventi, fatti, persone e circostanze che cambiano scenari e il corso della storia. E questa sembra essere, almeno finora, la morale della nuova crisi greca, uno dei paesi più disastrati d'Europa e forse proprio per questo in grado di forzare la mano all'Europa e alla Germania sulla linea del rigore ad ogni costo. È presto per dire se sarà proprio Atene a salvare l'Eurozona dalla crisi di identità in cui è caduta, ma è certo che la tenacia con cui la Grecia sta dicendo ai propri creditori di rivedere i termini del prestito e renderli meno onerosi e più attenti e sensibili alle esigenze della gente è un'apripista non solo per un accordo in Grecia, ma che può valere anche per altri stati. La reazione molto positiva dei mercati finanziari, delle borse e dei titoli di Stato con il loro rally che continua ormai da due giorni significa infatti che anche per i mercati, per gli investitori, questa vicenda può essere uno spartiacque fra il rigore ad ogni costo e un rigore più morbido, più adattato e più sensibile soprattutto alla ripresa economica dei paesi. È con questo messaggio che oggi Tsipras, il primo ministro greco, è andato da Renzi con una richiesta di aiuto e di sostegno che, se si concretizzerà in un fronte dei paesi più deboli d'Europa, potrebbe finalmente spingere la Germania e l'Europa ad avere maggiore attenzione sulle criticità degli stati, ma soprattutto sui bisogni degli stati, delle famiglie e delle imprese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.